Bella raga, sono Pietro, anche di Solo Vinile Libri, e io ascolto Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa, dai eh! Hey everybody, this is John Connolly of Nuclear Assault. You are listening to Onda Rossa on Do It Yourself Radio. Please call in your support. Ciao, io sono Roberto di Tutti i Pazzi Fanzine e anch'io ascolto Do It Yourself Invasion, lotta dura per la verdura. È la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione. Non delegare, partecipa. Minuti primi. Tornano in diretta le trasmissioni di Radio Onda Rossa. E torna l'appuntamento del martedì sera dalle ore 21 alle ore 22:30 con Do It Yourself Invasion. E quindi torniamo dopo qualche settimana di pausa dovuta a problemi di mobilità del sottoscritto. Ce l'abbiamo fatta, eh? Per realizzare, non potete capire. Allora, brevemente, i contatti della radio. Potete ascoltare Radio Onda Rossa oltre oltre la frequenza in FM attraverso il sito della radio, raggiungibile al www.ondarossa.info, dove appunto potete ascoltare la diretta in streaming. Sito attraverso il quale troverete tutte le notizie registrate nell'arco della giornata, le corrispondenze, nonché i podcast delle trasmissioni, tra le quali, andando sulla colonna del martedì, anche tutti i podcast di Do It Yourself Invasion. Potete scrivere alla redazione di Radio Onda Rossa all'indirizzo ondarossa@ondarossa.info. Mentre per segnalare questa trasmissione, iniziative o per proporci le vostre autoproduzioni, potete scriverci a fantasma@ondarossa.info. E quindi dai. Non per ultimo, cioè per ultimo. Il numero di telefono per poter intervenire in diretta: 0649 1750. Mentre vanno sotto gli Alpha Tech, qui da un loro lavoro del 2011, allora questa sera vi andiamo a presentare una registrazione effettuata durante la presentazione del libro No More Pain, scritto da Antonio Cecchi dei Citacron Motherfucker. Presentazione del libro avvenuta da Radiation Records, libro edito da Area Pirata. Presentazione avvenuta in presenza di Marco Matteo, ex bassista dei Negazioni. Ne è nata un'interessante chiacchierata, a mio avviso. E questo è l'audio. Buon ascolto. No More Pain. E come dire, nelle stesse settimane in cui invece la band di cui facevo parte io, che era in negazione, ha deciso di ristampare tutto quello che abbiamo fatto, e con l'uscita di questo cofanetto che non a caso si chiama La nostra vita, dove c'è tutto quello che si è inciso. E intanto, se volete venire avanti, perché forse non ci state dietro, e oggi Antonio fa lavora da tanti anni e insegna inglese ai ragazzi, ma soprattutto per tanti anni invece in qualche modo ha insegnato hardcore girando l'Europa, l'Italia e anche l'America. Io voglio partire dal fondo, però, cioè intanto premesso che questo libro c'è il racconto di umanità e di una serie di cose che poi andremo a spiegare della storia dei CCM. La cosa che io voglio chiedere innanzitutto, poi lasceremo spazio molto alle domande vostre, perché chiunque voglia le fa in qualsiasi momento, è che cosa è rimasto nella tua vita oggi di quello che hai vissuto allora con i CCM? Intanto ringrazio Marco per questa presentazione, anche un po' troppo come dire, elegiaca, vabbè, però diciamo sì che la band in cui suonavo io è stata abbastanza importante per vari motivi, va bene. Cosa è rimasto nella vita attuale? Da un certo punto di vista direi tutto, perché a distanza di 30 anni, abbiamo fatto un conto prima io e Marco e non ci vediamo da 30 anni, ci siamo visti oggi, è stato no come l'ultima volta che ci siamo visti, nel senso, ne discutevamo anche con Carmelo. Con un determinato numero di persone con cui passavamo del tempo intenso 30 anni fa, tutto è rimasto sostanzialmente più o meno uguale. Le strade personali si sono divise, io insegno, lui fa giornalista, altri fanno altri lavori, però quello che ci legava secondo me è rimasto vivo a tutt'oggi. Per il resto poi personalmente continuo a vedere le cose intorno a me come le vedevo prima. Quel genere di musica mi ha segnato, ancora lo ascolto, sebbene non sia il mio ascolto principale, però insomma non è facile liberarsene, al punto che prima che qualcuno me lo chieda ve lo racconto io come mi è nata l'idea di scrivere questo libro, perché a un certo punto ho deciso di scrivere questo libro, che ha coinciso fra l'altro con l'uscita della nostra discografia. E non si è trattato di una cosa programmata, ma si è trattato di una cosa che a un certo punto ha cominciato a convergere. Sono padre di due figli, i miei due figli suonano in due band e incontrano grosse difficoltà a suonare la loro musica. Perché? Perché sostanzialmente suonano musica propria. In particolare quello grande e quello piccolino, che ha 15 anni, è ancora allo stadio del primo demo, lo stanno terminando in questi giorni. Quello grande invece, che già suona, che ne ha 23, che già suona e è anche abbastanza bravo, tornava a casa dopo essere stato nel posto a chiedere se poteva suonare, tornava a casa sempre parecchio scocciato, perché gli chiedevano: ma siete una cover band di Ligabue? Ma siete una cover band di Nirvana? No, e allora mi dispiace, ma non potete suonare. Allora questa cosa io mi sono ricordato intanto quanto fosse importante per le nostre band suonare la nostra musica e non quella di qualcun altro, come in questo momento invece ti costringono a fare. Secondo me mi è venuta l'idea di mettere per scritto tutte queste cose che sembravano accadute in una vita precedente e che invece erano accadute sostanzialmente di recente. L'ho scritta perché i miei figli potessero vedere che quello che avevo scritto insomma era vero, quello che avevamo vissuto. Poi caso ha voluto che la cosa da un PDF per famiglia si sia trasformata in un libro dall'incontro fortuito, dovete credermi, con delle persone, una delle quali mi disse, Heinz, no, stiamo parlando dell'amico Heinz Zaccagnini, una delle quali mi disse appena mi vide: ma non ti ricordi, mi hai intervistato dopo un concerto, avevo capelli lunghi, tutti mi guardavano male, ma te invece mi dicevi, vabbè, ma metà l'anno, sono bravi anche loro. A distanza anche lì di 20 anni hanno letto questo libro, mi hanno convinto a pubblicarlo e niente, adesso è qua. quello che a me piace, Antonio, di quello che stai dicendo e anche di quello che c'è dentro il libro, che non c'è un racconto, diciamo, nostalgico della serie, come era bello, come eravamo bravi, cos'era quel tempo, ma c'è una volontà di narrazione, di tramandare determinate storie, e anche perché per qualcuno che magari non conosce appieno la storia, stiamo parlando dei primissimi anni Ottanta, di una scena punk che ufficialmente è morta. Se tutti dicevano il punk è morto, invece noi stavamo benissimo, e anzi eravamo molto più incazzati di quelli prima. Si decideva e si voleva suonare della musica così veloce, così distorta, che quasi nessuno al di fuori dei matti come noi ne volevano sapere qualcosa, e in qualche modo credo che questo fu anche un po' la nostra fortuna, nel senso che ci permise di, come dire, di crescere in un ambiente, per così dire, protetto di nostri simili, e di inventarci delle cose che altrimenti non avremmo potuto fare, perché non c'erano locali che erano disposti a farti suonare, certo. Perché non c'erano studi di registrazione, non c'era nulla. Quindi, diciamo, un po' lo spirito dei pionieri. Al tempo stesso, già nel primo periodo venne riconosciuta all'hardcore italiano, ai Cipero Motherfuckers, a Negazione, Aero Power, agli Indigesti, a tutta una serie di band, passando per i Kina, i Breccia, eccetera, lo stile dell'hardcore italiano, che possiamo anche vantarcene qui pubblicamente, e credo che sia storicamente una delle pochissime volte in cui ciò è avvenuto, cioè la riconoscibilità di uno stile italiano che forse c'era stato negli anni 60 in parte con il beat, forse c'è stato in parte con l'hip hop dopo, ma mai come allora. Che cos'era secondo te, Antonio, che rendeva effettivamente unica quel perché poi nessun gruppo si assomigliava all'altro, c'è anche questo da dire. Allora, intanto il libro non è una cosa nostalgica, semplicemente perché io sono fiero di aver vissuto quegli anni, quei modi lì, però non rimpiango niente, nel senso, la mia storia umana, la mia storia musicale è iniziata e terminata come raccontato in questo libro. Io non sono uno che rimpiange, che dico, ah, bei tempi, come stavamo bene. No, secondo me stavamo bene quando volevamo stare bene, come adesso stiamo bene se vogliamo stare bene. Che cosa rendeva le nostre band speciali? Intanto noi suonavamo con il cuore, ma veramente, cioè montavamo sul palco e eravamo veramente convinti di essere in quel momento la migliore band in assoluto nel mondo, e questo se sei sul palco ti aiuta, perché il feeling che trasmetti, se non sei convinto, diciamo, le persone non se ne accorgono. E poi il fatto che gli italiani, con tanti difetti che hanno, però hanno questa creatività anche sconosciuta, secondo me, in diverse parti del mondo. E poi c'era un'enorme solidarietà tra noi, che ci consentiva anche, venivamo messi al nostro agio, nel senso, se venivamo a suonare a Roma, se andavamo a suonare a Milano, sapevamo che le persone che ci avevano chiamato, il gruppo che ci veniva a vedere era disponibile nei nostri, questo in un secondo tempo, perché inizialmente era esattamente il contrario, inizialmente anzi dove andavi e venivi osteggiato. Ma per caso lì parliamo dell'era, chiamiamola punk, da cui sostanzialmente non mi dissocio, però non mi ci riconosco, invece mi riconosco appieno quando la parola punk è tramontata, hanno detto bene, è finita, e noi invece anzi abbiamo iniziato alla grande proprio lì. Quindi secondo me è soprattutto l'originalità, per cui in Olanda se c'era un gruppo italiano scheduled, cioè programmato per un concerto, un ragazzo olandese sapeva che vedeva sicuramente qualcosa fuori dal comune, qualcosa di particolarmente originale, cosa che non accadeva invece per molti dei gruppi tedeschi o per molti dei gruppi francesi, ad esempio. Sì, qualcosa di... la prima volta che si andò a suonare in Germania, noi stiamo parlando adesso dell'estate del 1984, e noi ci presentavamo vestiti abbastanza all'americana, sì, diciamo, certo. Un po' come Carmelo Seminari qui presente si veste anche oggi, camicia quadri, jeans magari potevano essere un po' ginnastica. Esatto, e infatti l'epiteto con cui i punk tedeschi, che invece erano molto seri sia nell'ubriacarsi fino al collasso, sia nel fare gli scontri con la polizia, ma anche nell'imitare il punk inglese, è che noi eravamo degli sports punk. Poi però i tedeschi, che sono così seri anche nelle trasformazioni, un anno dopo, quando andammo in tour insieme con i CCM, erano tutti vestiti, ovviamente erano tutti uguali, dei campioncini, dei modelli, però diciamo che c'era anche questo, perché un'altra delle cose che emerge in maniera importante, secondo me, dal libro di Antonio, e che non c'è stato tanto negli altri libri che sono usciti su quel periodo, era il legame, cioè il senso di i valori di quella scena. il senso dell'amicizia, per esempio, l'idea di, ce ne parlavamo prima insieme, quasi di essere europei prima dell'Europa. In qualche modo i confini erano delle barriere enormi da superare, soprattutto per chi non era proprio allineato e quindi passavi, rischiavi di passare delle ore a essere perquisito. Ma in realtà per noi era naturale che da Roma a Milano, Amsterdam, piuttosto che Berlino e altri posti, ci fosse un sentire comune. E anche se oggi forse viene difficile da spiegarlo, un'altra cosa che emerge qui è il fatto che non c'erano invidie tra i gruppi. Cioè, io ricordo i CCM per noi erano un modello, perché erano degli amici, perché potevano, ho sempre pensato che fossero il miglior gruppo live, ma potevano anche essere il peggiore se c'era la serata storta, ma se c'era la serata buona non ce n'era per nessuno, perché poteva succedere veramente qualsiasi cosa su quel palco. E non c'era un senso di competizione o di invidia, ma c'era un senso di fratellanza che portava a condividere dei palchi e a fare delle esperienze comuni, che poi sono cose che sono cresciute nel tempo, credo. E che sono poi rimaste. È vero. Io credo appunto sì che la solidarietà, che l'amicizia fosse veramente uno dei motori per tutti noi. Abbiamo citato due dei nostri, cioè Marco era in un gruppo, io ero in un altro, ma eravamo perlomeno tre o quattro gruppi che avevano una connection così forte. Infatti quando ci trovavamo poi in tour era veramente una festa, sia per noi che ci mettevamo, essendo al nostro agio, davamo ognuno delle band il meglio di noi, sia per chi veniva a vederci esibire, perché se il clima era quello giusto, il risultato era ottimo, la musica era ad alto livello. Ecco, questo era l'aspetto positivo, però c'era anche un lato profondamente oscuro. Vai. Non c'era proprio nessun tipo di invidia. Questo io parlo, nel libro parlo a nome mio, però su questa cosa mi sbilancio e dico che tutte le persone che hanno suonato con me in questo progetto non hanno mai provato alcun tipo di invidia per tutte le band che abbiamo. Questa secondo me non è una cosa, è una cosa abbastanza fuori dal comune, di cui secondo me dobbiamo andare fieri. E c'era, dicevo, anche il lato oscuro, nel senso che era un periodo per certi versi meraviglioso, era un periodo per certi versi terribile, perché ne potevano succedere di ogni, potevi finire, diciamo, prima di un giorno del cosiddetto caos in Germania ad Hannover, dove diciamo che c'era l'abitudine che veniva ancora organizzato un raduno di naziskin, e i punk contrastavano questa giornata, e quindi dopo il concerto della sera prima si andò tutti lì, e poteva capitare di essere arrestato semplicemente per come ti stavi muovendo in stazione, finire a passare la giornata in cella con un punk scozzese che vomitava e pisciava ovunque. Ma queste sono, diciamo, quelle le cose di colore. Esatto, ma al tempo stesso c'era un lato oscuro anche delle cose che in qualche modo noi a ripensarci abbiamo vissuto anche come delle enormi difficoltà, delle grandi frustrazioni o degli eventi traumatici, ma che in qualche modo invece il gruppo in cui suonava Antonio sembrava che fosse una sorta di calamita, perché ci furono episodi molto forti. Cioè, se vuoi, non so se vuoi raccontarne uno, per esempio, per far capire che appunto era bellissimo, ma anche poteva anche essere terribile, tipo a Londra. Allora lì il discorso si fa molto vasto. Senza raccontare l'episodio proprio particolare, tra l'altro un paio di sere prima eravamo insieme nello squat. Diciamo che se vivi in un clima di violenza ti può capitare e ti capita la violenza di infliggerla, e alcune volte la infliggi non sei nemmeno te, è qualcosa che ti muove dentro, una specie di sentimento che è dentro di te, capito? Qualcosa che ti spinge a essere violento verso qualcuno che magari in quel momento se lo merita, però sostanzialmente fai qualcosa che non avresti dovuto fare, non sto parlando di termine cristiano di occhio per occhio, dente per dente. Questa violenza tipo boomerang poi rimane nell'aria e poi a un certo punto si riabbatte. Io ho vissuto questa cosa perlomeno un paio di volte, quindi significa che perlomeno un paio di volte, ahimè, io ho inflitto violenza e dolore a qualcuno. Quando mi sono reso conto di questo, quando mi sono reso conto che la band aveva questa grossa potenza di suscitare gioia e piacere, due sere prima eravamo insieme noi, loro, dei ragazzi di Torino che avevano occupato questo spot, una festa di italiani a Londra meravigliosa. Due giorni dopo ero in ospedale con un dito rotto, le tempie gonfie, hanno cercato con un'ascia d'acciaio di decapitarci, insomma, cose abbastanza prese. Ti fa ripensare, e sostanzialmente secondo me conviene la violenza non tenersela per sé. Però ripeto, la vita sulla strada, i conflitti interni fra persone di 20 anni, di 22 anni che sgomitano l'una con l'altro, portano, a volte ti portano a, questa, a questi eccessi. La vostra era una band di ragazzi bravi. Eravamo i bravi ragazzi. Voi eravate bravi ragazzi. È vero, noi eravamo i bad boys. Noi eravamo i cattivi. Non solo chi ci rappresentava con il microfono in mano, perché lui da solo non avrebbe potuto essere veramente cattivo se dietro non avesse avuto altri tre che erano delle merda anche loro, sostanzialmente. Perché questa è la verità. Marco ha detto bene. Una sera poteva succedere che suonavamo ed era una festa. La sera successiva, come è successo una volta a Milano, poteva terminare in un bagno di sangue, in cui qualcuno di noi perdeva un litro di sangue sul palco e sembrava quasi una cosa normale. Non so se eravate presenti a Milano a Leoncavallo quella volta. Sì. Quindi, gli anziani alzino la mano, diciamo. Quindi sensazioni forti che secondo me hanno lasciato un segno profondo sicuramente in me, ma anche in molte delle persone che vivevano quelle situazioni. Non era facile andare a giro, abbiamo durato 10 anni a fare questo genere di esistenza, fin quando a un certo punto io mi sono reso conto che secondo me il cerchio si doveva chiudere, quantomeno per me. Poi la storia secondo me mi ha dato ragione, perché di lì a poco la nostra band si è sciolta definitivamente. Ma secondo te, Antonio, anche per chi appunto a quel concerto non c'era, magari io non so quante persone qui abbiano mai visto suonare CCM dal vivo, facciamo un appello? Ecco, dovremmo secondo me essere più, per noi eravamo i bravi ragazzi, era una cosa più esplicita, cioè io non so se sia una mia interpretazione giusta oggi riguardando indietro, ma credo che il fare quelle cose con lo spirito da pionieri, perché nessuno l'aveva fatto prima di noi, nessuno ci stava insegnando come farle, e inevitabilmente l'ambiente e l'ambientazione era spesso la strada. E in tutti i sensi possibili, e la strada non ti regalava nulla, anche perché stiamo parlando dei primi anni 80, quindi un'Italia in cui in qualche modo noi arriviamo a fare queste cose dopo l'ondata del Movimento 77, dopo la repressione con gli arresti di terrorismo, dopo la diffusione massiccia dell'eroina, quindi siamo in un ambiente un po' particolare in Italia, ma anche nel resto d'Europa. Esatto, quindi come dire, la violenza era in ogni caso una componente. Quello che mi chiedo oggi, anche per le cose che stiamo raccontando, è se era inevitabile tutto ciò, cioè se era una quanto poi giustamente tu dici una versione di Bad Boys o di Bravi Ragazzi, a proposito di Bravi Ragazzi, eccole qua. però mi chiedo se questo era inevitabile vista l'ambientazione, e se possiamo forse anche essere un po' più espliciti nel raccontare delle cose, visto che appunto molti qui non hanno vissuto quel periodo, magari sono interessati dopo, hanno avuto una fascinazione per quel periodo, o sono semplicemente curiosi delle nostre storie. Ma per quanto riguarda me e la mia band, la cosa era inevitabile. Te hai citato l'eroina. Io ero un ragazzo di 16-17 anni, la sera abitualmente uscendo, i tossicodipendenti erano una realtà parecchio pesante. Pisa è una città piccola, cioè nonostante invadevano il centro della città ed erano particolarmente aggressivi. L'alternativa era fra diventare te stesso tossicodipendente oppure fare qualcosa di diametralmente opposto. Da questo punto di vista ne abbiamo discusso più volte anche con Domenico, che nella prima versione della band suonava la chitarra quando io suonavo il basso. La musica è stato proprio un viatico per evitare di fare una fine del genere, insomma. Era una società parecchio più violenta di quella che vedo adesso, anche perché adesso vabbè non la vivo più come la vivevo prima, perché sono molto meno in giro. Secondo me era inevitabile. Eravamo una band da tinte bianche e nere, parecchio forte, e c'era sempre qualcosa nell'aria, no? Poteva succedere sempre qualcosa o di molto buono o di molto cattivo. Io credo che i nostri brani esprimessero perfettamente quella sensazione, quella tensione, la tensione di fondo. La cosa stupefacente, se comprerete il libro, a un certo punto ci sono le memorie di un ragazzo, Mark, che faceva il roadie per la band di New York con cui abbiamo fatto una parte di tour. E io a lui ci siamo rivisti anche lì 20 anni dopo, ho avuto occasione di andare a New York, vabbè, eccetera, eccetera. E gli chiesi di guarda, attenzione di scrivere un libro, mi piacerebbe che tu scrivessi le tue impressioni su noi italiani a giro negli Stati Uniti, le impressioni che ti abbiamo fatto. E l'ho dato proprio carta bianca. E stiamo parlando del 1986, giusto? Sì, sì. E lui 2 giorni dopo mi ha mandato queste 5-6 pagine scritte, io le ho tradotte, le troverete, e una delle cose stupefacenti è che lui diceva delle cose, parlava di questi demoni, per esempio, lui diceva che noi avevamo dei demoni dentro che scatenavamo sul palco, diceva, io non capivo una parola di quello che cantava Sid, pur cantando in inglese, però cioè, sentivo che era una specie di catarsi, capito? Sì. C'era qualcosa di un processo di liberazione, di purificazione sul palco. Quindi vuol dire che doveva essere veramente così, perché poi in fin dei conti ci eravamo conosciuti a New York, ci hanno messo su 2 furgoni uno accanto all'altro, siamo partiti per fare 20 giorni insieme. Infatti lui dice, inizialmente erano un po' timorosi, dicevano, come saranno questi, saranno simpatici, saranno insomma degli stronzi, non sapevano niente. Poi dice, invece dopo un paio di concerti capimmo che eravamo fratelli. Io credo che anche per essere stato testimone, e spesso anche suonandoci assieme, c'era un'idea in cui era come se voi prendeste il dolore di tutti e lo esprimeste sul palco con la musica. Era una parte che in qualche modo apparteneva a tutti noi, perché appunto eravamo ragazzi, eravamo entusiasti di quello che facevamo, ma eravamo anche tremendamente incazzati e spesso anche disperati, e c'era una componente forte di dolore. Questa cosa qui, la musica dei CCM veniva fuori e diventava un qualcosa di comune, perché anche l'automutilazione, o comunque ciò che faceva sì, diventava quasi un rito che apparteneva a tutti. Ma io vorrei tornare un attimo sull'America, perché diventava un rito che poi, come sottolineo più volte, era un rito che nemmeno noi stessi sapevamo che quando si sarebbe verificato, perché certe volte noi avevamo una scaletta, c'era questo brano in scaletta, alcune volte questo brano iniziavo io, non partivo su questo brano, alcune volte mi ritrovavo che questo brano era partito, e quando il brano era partito decollava, e fin quando non c'era un climax particolarmente alto questo brano non giungeva a fine. E questa secondo me è una cosa molto significativa. Noi non decidevamo mai se farlo o non farlo, Frustration si chiamava il brano. Questo brano si impadroniva di noi, voleva essere eseguito. A un certo punto, poi nella seconda formazione, con il cambio delle pedine, con l'arrivo di una persona meno cupa, diciamo, di noi altri tre, questo brano è scomparso, e ne è arrivato un altro brano, l'ultimo che abbiamo mai suonato, che ha dato un colore ancora completamente diverso a tutto. Comunque sì, c'era il dolore, c'era presente assolutamente. E l'America invece, perché noi stiamo parlando del fatto che delle band italiane i primi erano stati i Raw Power, poi nell'estate dell'86 tocca agli Indigesti da una parte e ai CCM dall'altra. Oggi sembra normale ricordare il fatto che i CCM abbiano fatto un tour americano nell'86, ma non era per niente normale, cioè non c'era alcuna premessa, come dire, di business, di accordi, non era cioè sapevi che partivi, ma non sapevi soprattutto come saresti tornato. Perché non c'era mica nessuna assicurazione. Cioè, noi eravamo in contatto con il manager dei DOA, che è in Leicester, che ci aveva detto, sì, venite, vi organizzo le date. Noi partimmo, però una volta che davi la parola, se io dicevo a Marco venite a suonare a Pisa che c'è da suonare, vi diamo rimborso, c'è da dormire, c'è da mangiare, loro partivano, perché sapevano che io avrei dato una mano per far funzionare tutto questo. E quindi noi partiamo sulla parola, andiamo negli Stati Uniti, e a New York ci fanno trovare un furgone, a New York ci fanno trovare gli strumenti da noleggiare, cioè tutto insomma una cosa abbastanza complessa, tutto sulla parola data. Tutto sulla parola d'arte, quindi non solo non c'era business dietro, c'era un impegno morale molto forte nelle persone che erano coinvolte questa cosa qui. Io credo ci fosse però anche quasi dell'inconsapevolezza, nel senso non è una cosa determinata, ti veniva spontaneo essere così ed eri, come dire, comune ai tuoi simili, e al tempo stesso ti muovevi in condizioni che oggi fa quasi sorridere ricordare, perché è giusto anche sottolineare che stiamo parlando di un'era senza, senza l'internet, senza gli smartphone, non c'erano neanche i fax. Io ricordo che a Torino i primissimi tour li organizzavamo grazie a, a questo passaparola che si era diffuso tra i primi immigrati nordafricani che arrivavano a Torino, e ci avevano spiegato che c'era una determinata cabina telefonica, perché esistevano le cabine telefoniche, in cui bastava aprire una graffetta, collegare il cavo e l'altro dentro, e noi ci organizzammo il primo tour europeo, piuttosto che magari qualcuno ci aveva dei lavoretti che andava a fare le pulizie da qualche parte di notte e riusciva a usare il telefono. Tutto ciò in qualche modo rendeva, cioè non era una cosa che ci sembrava strana, ripensarci oggi sembra una cosa veramente da matti. Però loro si ritrovano a fare questo tour americano, per cui io insisto, volevo ti chiedere di quello, perché poi tu comunque già studiavi, poi sei diventato insegnante. Che cos'era cos'era l'America, e anche rispetto all'hardcore per te allora? Vabbè, l'America per me, che sono laureato in letteratura nordamericana, era un sogno assolutamente, era proprio il nirvana, il luogo in assoluto dove volevo andare, figuriamoci a suonare. L'inconsapevolezza, mi ricollega a quello che ha detto prima, era totale, perché noi avevamo tre date, se la terza data saltava, noi la quarta data non si arrivava. Cioè io che ero ricco, perché mio padre mi aveva dato un milione, perché mi ero laureato, con 500 mila lire, comprai il biglietto, altri 500 mila lire ci andai avanti 20 giorni, Sid partì con 0 lire, il batterista Fantinato partì con 20 mila lire. Cioè, ma sembra una barzelletta, lui partì con 20.000 lire, quando arrivavamo a Las Vegas lui aveva, gli era rimasto un dollaro, disse proviamo con un dollaro nella slot machine, ovviamente si perse, e lì dopo 20 giorni che eravamo negli Stati Uniti lui aveva già finito tutti i soldi. Quindi noi dovevamo arrivare alla data successiva, era necessario farlo, quindi alla grazia di consapevolezza. C'era proprio follia da un certo punto di vista. Bene, eppure si trovava sempre l'energia umana ad andare avanti, l'energia di aiutarsi, l'energia di sopravvivere alle tensioni interne, che quando gli umani sono sotto stress le tensioni arrivano a dei livelli pazzeschi. Infatti una delle cose che io credo che ha legato di più me e Marco, perlomeno per quanto riguarda me, è stato trovare Marco alla fine del tour a New York, dopo essere passati attraverso veramente l'inferno più ripresa anche negli Stati Uniti, averlo trovato in un momento in cui vedere una faccia nuova dai soliti quattro con cui avevi passato tre mesi in un furgone, fu un momento veramente, insomma, importante. E diciamo che a ricordarlo oggi a stento si parlavano, e poi lo capì dopo attraverso i racconti di quello che avevano vissuto. Io peraltro era abbastanza buffo, perché mi trovavo invece lì, dopo aver lavorato per 4 mesi facendo la stagione in Liguria a fare l'aiuto barista per mettere insieme, era appena uscito il nostro primo album Lo Spirito Continua negli Stati Uniti, e quindi anche lì l'idea folle di andare, vado in America e organizzo un tour in modo che poi d'inverno si possa andare a suonare, e la cosa paradossalmente stava anche riuscendo, se non il fatto che poi il nostro cantante Zazzo all'epoca c'aveva il servizio civile da fare, quindi non aveva il passaporto, non sarebbe potuto andare negli Stati Uniti. Ma ripensarci oggi, nel mio piccolo feci un mese e mezzo negli Stati Uniti senza andare a dormire una volta in hotel, perché c'era comunque una rete di persone che erano amici degli amici, che erano quelli con cui ti scrivevi, che erano quelli appunto della chiesa dell'83, quando andai la prima volta. Esatto, ma che cos'era? Insisto su questa cosa qui, perché secondo me quello è una delle cose chiave, la rete prima della rete, il fatto che per esempio Carmelo, che è qui, che era un seminario romano, ma per noi non era, cioè Roma era rappresentata da Carmelo. Lui era il nostro contatto. Perché veniva ai concerti a Pisa, a Milano, lo andava in giro, perché l'altra cosa non era solo i gruppi che si spostavano, ma si spostavano intere bande di ragazzi e di ragazze con i modi più disparati, fondamentalmente con l'autostop e biglietti falsi sul treno, si può dire oggi, però quelli, diciamo, era la pratica più corrente. Ma si stabilivano dei legami che poi, al di là del fatto di suonare in un gruppo eccetera, creavano un circuito. Carmelo aveva un suo gruppo, ma per tanto tempo era Carmelo e basta, perché sapevamo che aveva questo gruppo, ma lui spuntava da tutte le parti, e fosse Amsterdam, Berlino eccetera. Antonio, che cos'era questa cosa della rete prima della rete? Era la sicurezza che se ti andavi in un posto e ti dicevano contatta questa persona, ti sapevi che quella persona avrebbe fatto del suo meglio per darti la mano. E a seconda del ruolo che aveva, ti poteva o garantire un'intervista a Maximum Rock and Roll, per esempio, come successe lì, oppure ospitarti a casa sua e ospitarti in maniera completamente gratuita. E poi da questa persona, da San Diego, per esempio, sto parlando di Chris della Bad Compilation Records Tapes, da lui ti dava un altro numero di telefono, ti chiamavi a questa persona e partivi e andavi a Sacramento. Non l'avevi mai visto prima, non sapevi nemmeno come riconoscerla. Arrivavi, scendevi dal Greyhound con scritto un cartellino con scritto CCM, quello arrivava, Scott, diceva: ah, ciao, io sono Scott della fanzine, vieni a casa mia. Andavi a casa sua, ti dava da mangiare, ti ospitava, ti intervistava per un foglietto che leggevano 30 persone, e da lì ti dava un altro numero di telefono e ripartivi. Quindi quella era la vera rete pre-internet, che funzionava al 100%. In ogni posto importante c'era qualcuno fidato, qualcuno che sapevi che avrebbe fatto del suo meglio per aiutarti. Questa cosa era poi fortissima anche in Olanda, era fortissima in Germania, in Svizzera, in Austria. La prima volta che ci proposero di andare a suonare in Austria, per esempio, sembrava una follia. Austria, ma che si fa? Invece lì c'era un'ottima piazza dove suonare. Ci siamo persi in Lubiana, per esempio, non abbiamo mai suonato nell'est, è stato un peccato perché ci siamo sciolti subito prima, ma cominciava a funzionare, per esempio, anche l'est. Infatti noi abbiamo capito questa fortuna di andare a suonare a Sarajevo e Belgrado, peraltro 6 mesi prima che scoppiasse la guerra nei Balcani. E era una rete in continua espansione, esatto. Peraltro. Era una rete in continua espansione. Mi permetto anche di dire che oltre alle cose che vi ci hanno detti prima, che non c'erano, era anche un'era pre-MTV, che oggi non è più quello che era. E quindi succedeva che tu andavi nei vari posti e scoprivi degli stili diversi dei gruppi. Il gruppo, i finlandesi, i Tervet Kadet, temibili, perché io li detestavo, certo, suonavano in un certo modo. Io quando andavo in quella che adesso è la ex Jugoslavia, avevano dei gruppi, Disciplina Kičme e Caterina Velica, che sembravano i Talking Heads in acido, erano di una potenza, di una violenza sonora incredibile, super creativi, e semplicemente loro interpretavano in quel modo ed erano catalogati tra virgolette alla voce punk, e l'hardcore fu forse la spinta per tutto questo a muoversi. Certo. Ma banalmente, poi tu probabilmente facendo questa operazione di scrittura un po' forse ti sarai fatto, c'è un momento particolare, cioè il momento più bello ce l'hai in mente, un'immagine, un'esperienza, un concerto, che cos'è? Il momento più bello è capitolo i giorni grandi, sono quando ognuno, loro da Torino, altri da Milano, noi da Pisa partiamo per questo tour e ci ritroviamo in Germania e in Olanda e suoniamo noi, loro e Kina di Aosta, e suoniamo alternativamente per 3 o 4 sere insieme. Quello è il momento più bello per quanto mi riguarda, perché lì veramente è stato il clima che c'era, era fantastico, perché poi eravamo già amici, ma poi ritrovarsi così all'estero cementava ancora di più la cosa. Poi c'erano i famosi problemi tecnici, venivano bypassati, perché se si rompeva un amplificatore si usava quello di Tax, se si rompeva la batteria si usava quella in un altro, di certo. Sergio De Kina, c'era completamente I Kina, per chi non lo sapesse, è un grandissimo gruppo di Aosta che noi avevamo soprannominato gli Uscardù delle montagne per questa cosa, e che diciamo erano anche soliti subire alcuni scherzi, tipo se c'era da decidere per chi suonava per primo era sicuro che erano i Kina e piuttosto che certi scherzi col furgone, che non stavo a ripetere perché sono al limite della denuncia. Però questo è in effetti, cioè, quindi il senso questo di questo per me sono stati giorni grandi, il momento in cui io personalmente l'hardcore italiano secondo me è arrivato al suo zenith. Perché finisce tutto nel 1987? Dunque, io esco di scena, ripeto, perché la mia parabola arriva al concerto del Casalone. Dunque, noi torniamo dagli Stati Uniti, dopo meno di 2 mesi ripartiamo, dopo questo tour massacrante degli Stati Uniti, 4 mesi ripartiamo, andiamo 3 mesi a giro in Europa. Anche perché, scusa Torio, c'è un altro piccolo particolare da segnalare. In quei tempi lì si campava magari pure male, solo se andavi in tour. Quando stavi a casa dovevi tirar su dei soldi per poi eventualmente ripartire o comunque per mantenerti, e non c'era, diciamo, una sicurezza di fondo. Scusatelo, ma sta seguendo gli aggiornamenti giustamente della partita di suo figlio, e nonostante fosse in campo suo figlio oggi, Antonio è voluto venire qua. Ti ho interrotto, vai. Dicevo, dopo questo tour di 4 mesi negli Stati Uniti massacrante, passano 2 mesi, ripartiamo per il tour europeo. Questa volta non insieme a loro, ma per conto nostro. È il tour più lungo fatto in Europa, che è quello per noi. Si aggira su 3 mesi e succedono veramente di tutte, di cotte, di crude. Non vi voglio anticipare niente, Marco ha fatto un accenno al gabbio. Diciamo che ci siamo stati tutti nel gabbio. Qualcuno per altri motivi, senza alcun motivo, noi per motivi sensati, vabbè, faceva parte secondo me dello schema della cosa. A quel punto lì, io personalmente, che scrivevo praticamente tutti i riff del gruppo, dopo 3 mesi in 4 mesi negli Stati Uniti e 3 mesi in Europa, avevo scritto 2 brani soli, quindi questa cosa a me mi puzzava incredibilmente, perché eravamo sempre stati una band super prolifica. I brani nascevano a nastro, in continuazione. C'era sempre l'imbarazzo della scelta. Sid era l'arbitro che diceva: no, questo è troppo forte, no, questo lascialo perdere, questo è troppo prog, questo è più tirato, facciamo questo. Però i riff li tiravo fuori io, e la mia sorgente si era spenta, questa cosa mi impensieriva. Al termine di questo tour europeo, io ero veramente esausto, ma soprattutto a livello psicologico. Proposi ai miei compagni di fermarsi per registrare questi brani, per riposarci un pochino, e loro invece mi dissero di no. Allora a quel punto io uscii dalla band, e quindi quello che è successo dopo, come mai tutta la cosa si sia spenta, non saprei dirlo, perché io di fatto sono uscito di scena un pochino prima. Però prima di uscire di scena, l'ultima grande opportunità, il concerto del Casalone a Bologna, Indigesti, Negazione e CCM, per l'ultima volta insieme. CCM con me aveva annunciato che aveva lasciato la band, Negazione con Fabrizio che sarebbe poi avrebbe lasciato la band e poi mi sarebbe morto nemmeno poi tantissimo dopo, purtroppo. E gli Indigesti, che invece avrebbero continuato a suonare, che però poi si sono sciolti anche loro. Secondo me quello era il momento giusto per quanto riguarda me, per quanto riguarda questa band, per uscire di scena. C'era spazio giusto per un ultimo brano che mi venne di impeto 10 giorni prima del concerto di Casalone, quando rifacevamo le prove senza nemmeno parlarci, perché eravamo arrivati al punto che eravamo amici, ci amavamo, perché questa è una storia d'amore, la mia convivenza con queste persone è una storia d'amore, però era veramente pesante la situazione. Questo brano si ripresenta magicamente al Casalone, l'ultimo brano che noi suoniamo, l'ultima immagine che troverete nel libro è l'immagine di me che suono l'ultimo brano al Casalone. Quindi secondo me era giunto proprio il momento, questo è il manifesto, no? Era giunto veramente il momento in cui farsi da parte. Quindi secondo me poi la cosa si è spenta, perché è giusto che sia così, cioè, perché ecco, questa è l'immagine, queste sono proprio le ultime note. Anche qua c'è da raccontare un aneddoto. Il nostro batterista, quando ha sentito questo brano registrato, mi ha detto: ma siamo noi quelli? Cioè, lui se l'era completamente dimenticato che noi avessimo suonato quel brano lì. Io no, io me lo ricordavo perfettamente di questo brano, che per me rappresentava proprio il curtain che si chiude alla fine dello spettacolo. Cos'è successo nel frattempo? È successo che vengo contattato da Stefano Ballini, un ragazzo che quella sera a Casalone aveva 17 anni, aveva appena compiuto 18 anni, di Firenze, che era venuto fino a Bologna per vedere CCM prima di partire militare, aveva avuto la cartolina. Perché c'era anche il servizio militare allora, tra le altre. Cioè, non c'erano un sacco di cose di oggi, ma c'era il servizio militare. C'era la leva obbligatoria. niente, Stefano, che io non conoscevo, di cui non sospettavo nemmeno l'esistenza, aveva un Walkman, ha registrato quella sera al concerto. 10 anni dopo mi contatta, mi manda una lettera tradizionale, mi dice: sono Stefano Ballini, vorrei permesso di fare un nastro, da una parte ci metto il vostro demo, dall'altra ci metto il vostro ultimo concerto. Ma perché te hai registrato il nostro ultimo concerto? Certo, come no, dico, me lo fallo assolutamente, perché anche lì dell'autoproduzione non abbiamo parlato. Noi avevamo dei brani, ma se chiunque volesse fare una compilation con uno dei nostri brani, semplicemente se era uno dei nostri era autorizzato, non c'erano royalties, non c'era niente. Lui mi manda questa cassetta e io, la folgorazione, quando sento il brano in questione, è stato veramente un momento. E questo brano lo troverete non nel doppio LP, perché per problemi di spazio non c'era. Il brano dura 14 minuti, una cosa abbastanza insolita per una band che faceva brani fra i 2 e 3 minuti. Quel brano dura 12 minuti, 14 minuti, lo troverete invece nei CD e secondo me rappresenta proprio la chiusura logica umana del tutto. Ok, intanto come dicevo prima, se volete fare domande, se no noi andiamo avanti a raccontarci, ma possiamo anche raccontarcela tra di noi. Io c'è una cosa che mi ha colpito che hai detto adesso, e cioè che le band di quel periodo erano una storia d'amore, erano una storia di fratellanza, erano una sorta di famiglia. E anche se noi poi ci siamo sciolti molto tempo dopo, perché noi siamo andati avanti ancora fino al 1992 come Negazione, ma i sentimenti finali erano esattamente come quelli che ha descritto Antonio, cioè ci stavamo detestando e stavamo detestando quello che facevamo, perché ci eravamo letteralmente consumati. Noi abbiamo suonato per 9 anni, loro di meno, ma la sensazione era la stessa, e se ci pensi oggi forse anche, come dire, stavamo diventando adulti insieme, ma per molte cose eravamo ancora bambini profondamente dentro di noi. Però c'è un legame che peraltro poi a me è capitato per altre cose che sto facendo, che riguardano quel periodo, di ritornare in giro per l'Europa a rincontrare persone che hanno vissuto quel periodo e trovare una scintilla, qualcosa di particolare, che non è necessariamente qualcosa di migliore di quello che è venuto dopo o di quello che è venuto prima. Secondo me è un qualcosa di speciale, che poi ho idea che si possa ritrovare nella vita in molti altri aspetti che non necessariamente hanno a che fare con la musica. E questa cosa qua riguardava, ripeto, come dicevamo prima, anche in questo senso di fratellanza tra i gruppi. C'è qualcuno che vuole fare una domanda ad Antonio o a Carmelo, che a questo punto, se no io coinvolgerei poi anche gli Anti-You, che sono invece il pezzo aggiunto alla cosa di questa sera, nel senso, sta fuori, certo, sono ragazzi, stanno sempre fuori. Esatto, ha preso i soldi, ha detto le birre sono per voi e poi... Una domanda per entrambi, se ci sono ripensamenti, cose che magari volevate rimpianti? Fare. Rimpianti? Insomma, personalmente nessuno. Non ho alcun rimpianto, anzi secondo me ho avuto molto di più di quello che mi aspettavo. Ho iniziato col... suonando musica, rincorrendo miti dei Deep Purple, di Hendrix, degli Area, e quello che ho avuto è stato di gran lunga superiore a quello che avrei voluto, avrei mai osato immaginare. No, rimpianti non ne ho assolutamente. Ripeto, secondo me la band è nata, ha vissuto ed è morta nel momento giusto. Abbiamo fatto quello che potevamo fare, abbiamo fatto degli errori, abbiamo pagato per quegli errori, ma se non avessimo pagato magari avrei dovuto pagare poi nella mia vita privata e sarebbe stato molto peggio. Questa cosa, secondo me, il debito è stato saldato come band. Per quanto mi riguarda, personalmente no. Come gruppo ce lo siamo poi portuto, e questo credo sia stata la grande fortuna, cioè di sciogliersi in maniera tale che poi 25 anni dopo siamo ancora amici. Tax, chitarrista di Negazione, per me è il fratello che non ho avuto, cioè anzi è mio fratello e basta. Ed è capitato di parlarci e di fare la lista, diciamo, un tempo si diceva, anzi c'era in un nostro pezzo, collezione di attimi per le sensazioni più belle, e noi abbiamo fatto invece la collezione di cazzate e di scelte sbagliate che abbiamo fatto, ma come dire, non ne abbiamo sempre vissute fino in fondo, per cui non credo che ci sia nulla da rimpiangere, e credo di aver avuto la fortuna di avere poi tanto ancora dalla vita e di sapere che non avrei potuto fare quasi nulla di quello che poi sono diventato, ho fatto dopo, senza quel periodo. A differenza di Antonio, io non ho mai finito l'università e per anni ho combattuto con questo pregiudizio di mio padre che diceva, cioè contestava questa scelta. Io mi ero inventato sta cazzata di dirgli che quello che stavo facendo era in realtà la mia università. E la cosa meravigliosa è stato che 30 anni dopo mio padre mi ha detto che aveva capito che cosa intendevo, perché l'esperienza che probabilmente poi filtrava anche in quelle che erano le persone che amavamo, che ci stavano intorno, dell'intensità delle cose vissute, era un qualcosa che non, nessuna scuola, nessun master, nessuna specializzazione, nessuna sostanza ci avrebbe potuto dare. Li abbiamo stesi, però comunque eccolo qua. Mi piaceva, vai, il senso che avevate dato alla parola del sound italiano, che aveva comunque un qualcosa di differente rispetto a francesi, tedeschi dal punto di vista delle sonorità. Siete stati comunque abbastanza in America, avete suonato a fianco di band del settore. Una domanda a curiosità: la band americana più fra virgolette italiana che avete incontrato qual è stata? Questo lascio rispondere ad Antonio, perché noi arrivammo in America in realtà troppo tardi, nel senso che nell'86 quel tour che volevo organizzare non si fece, nell'88 un altro tour che dovevamo fare non si fece per un problema di batteristi, e quando arrivammo nel 90 e andammo in tour con i DOA eravamo un po', noi eravamo forse troppo arrivati tardi, loro forse troppo prima, insomma non era più. E poi in America le cose cambiavano molto velocemente, quindi quelli che ci avevano conosciuto col disco 86 quasi semplicemente non c'erano più. Quello che ti posso dire sull'Europa è che, con tutta la simpatia, gruppi francesi non me ne ricordo, gruppi tedeschi poca roba, fino a che arrivò un gruppo grandissimo che in qualche modo secondo me spazzò via pure noi o insieme ad altri, che erano i Jingo de Lange. Cioè oggi si può anche ragionare in termini quasi sportivi, no? Cioè se i Raw Power erano in assoluto il gruppo che comunque aveva prodotto il disco forse più bello tecnicamente, ed erano mostruosi ed erano stati i primi ad andare in America e avere quel tipo di successo, gli altri gruppi di cui stiamo parlando hanno stili completamente diversi. I CCM per me erano il miglior gruppo live, punto. A Negazione, posso dirlo anche con un po' di orgoglio, avevamo una continuità tale per cui facciamo talmente tanti tour che riusciamo a raggiungere un rendimento medio ottimo. Agli indigesti mancava questa continuità, ma erano un gruppo eccezionale, e via via tutti gli altri, Kina erano poetici, gli Impact, ma ogni gruppo aveva la cosa divertente che ogni gruppo, sì, ma suonava diverso, capisci? Cioè non c'erano delle sovrapposizioni per cui tu dici ma questo qua è sui Negazioni, sui CCM o sui Raw Power, sono in minimo, no, ognuno ce l'aveva. E sull'America invece lascio il gruppo italiano-americano. Domandona. grazie per aver fatto la patata bollente. Intanto il genere di accordi italiano eccetera eccetera è venuto fuori dopo, cioè noi quando suonavamo e basta, nonostante ascoltassimo Ramones o Black Flag eccetera, noi suonavamo e basta. Erano gli altri che ci dicevano ah questo brano sembra, ma vorrei citare per esempio quando suonavamo già da 5 anni, arrivò Bettina, una nostra amica, disse oh è uscito un disco di gente che fa musica vostra. No, veramente, era Group Sex The Circle Jerks, non l'avevamo mai sentito, però suonavano brani come noi, cioè. Quindi noi suonavamo e basta, il nostro genere era quello. È chiaro che se eravamo quattro, tutti e quattro appassionati di musica, con un background musicale molto vasto, tutti e quattro, e quindi quello che veniva fuori era la nostra identità di gruppo. Ognuno di noi amava un genere particolare, ma quello che veniva fuori ci rappresentava tutti insieme. Il gruppo più italiano in America non te lo so dire, però ti dico una cosa: i False Prophets, con cui abbiamo suonato, questo gruppo di New York con cui abbiamo suonato la maggior parte del tempo, erano tutto fuorché un gruppo hardcore, non c'entravano niente, erano completamente, forse loro erano abbastanza italiani, perché il cantante aveva una tuba e un bastone dove in cima c'era un cranio di capra, lui andava sempre a giro con questa cosa qui, entrava nei negozi così. Il chitarrista era invece il punk proprio per eccezione, perché c'aveva il chiodo, tutte le borchie, i capelli ritti. Allora era veramente abbastanza fuori dagli schermi. Comunque per gli Stati Uniti, ragazzi, funzionava come funzionava qui. Cioè, gruppi statunitensi come Victims Family, come MDC, noi suonavamo con loro tutti fermi così. Non so se avete presente il livello tecnico dei Victims Family o dei No Means No, tutti fermi così, immobili. Come cominciava un gruppo italiano, siccome non erano americani, cioè avevano qualcosa di diverso, allora si scatenava il putiferio. Non penso sia possibile fare un paragone. Sicuramente negli Stati Uniti c'erano dei grandissimi gruppi che però erano quelli che avevano meno riconoscimento degli altri. I DOA, lui ha citato DOA per esempio, che sono stati un gruppo che qui in Europa aveva un grandissimo seguito fin dall'inizio, ma negli Stati Uniti non se li consideravano mica più di tanto. No, lo testimoniamo noi andandoci in tour, perché appunto eravamo di spalla loro e non fu facile. No, appunto, ti aspettavi magari di andare in un posto ci fosse 1000 persone, ce n'erano 20, esatto. 25. Non solo, quando sono a San Francisco e c'erano CCM Headliner, invece lì c'era 400 persone. Ora non è per fare il presuntuoso, ma la gente era venuta per vedere i gruppi italiani, c'erano anche i BGK olandesi che suonavano prima, ma lì l'apoteosi, che fra l'altro potete trovare su YouTube, cioè il concerto è suddiviso in due parti, vi invito a guardarlo perché lì veramente si vede cosa succedeva sul palco, ci sono dei momenti parecchio intensi. La gente era lì per vedere noi. L'altra cosa che mi viene in mente è che c'erano due elementi di cui non abbiamo parlato, ma sono semplici, li dico al volo. Uno, ci fosse una persona o mille, si suonava allo stesso modo, con la stessa intensità, con la stessa. Non cambiava nulla. Due, provavamo come dei pazzi, non essendo, come dire, musicisti formati, essendo autodidatti eccetera. Noi nello specifico mi ricordo che Tax aveva letto questa intervista con Greg Ginn, chitarrista dei Black Flag, che raccontava che quando loro erano in tour, appena avevano un giorno libero andavano a provare, certo. E prima del tour provavano eccetera, e poi non so se lui l'abbia mai detta questa cosa, però ci convinse al punto tale che noi facevamo così, cioè noi anche perché non, raramente abbiamo avuto un batterista di Torino, quindi avevamo un batterista che veniva da Trieste come Fabrizio, quell'altro da Bologna eccetera, veniva per due settimane, non si faceva altro che provare, poi quando andavamo in tour, se c'era un giorno libero, si provava. E questa intensità, che quasi rispetto a quello che facevamo è quasi un senso etico del lavoro che facevamo, cioè dell'idea di essere in qualche modo onesti con noi stessi, non c'era. Molto spesso si leggono le cazzate, no, dell'inganno, della truffa, quello del punk, non era una cosa che ci apparteneva, era una cosa assolutamente fuori dalla nostra idea. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, visto che Marco prima ci ha fatto questo onore di definirci un grande gruppo live, devo dire che loro, questa cosa che Marco ha detto mi ci rivedo, perché il nostro frontman era probabilmente il miglior frontman europeo. Questo lo dico non come amico, non come ex fratello, ma lo dico secondo me in maniera obiettiva. Loro, d'accanto loro, avevano il miglior chitarrista del nostro genere, cioè avevano una persona che avrebbe potuto benissimo suonare con gruppi di portata mondiale. Loro ce l'avevano e sul palco faceva la differenza. Altri gruppi che magari non avevano delle eccellenze tecniche particolari, avevano però, per esempio, come Kina, avevano una persona scissa in tre. Tutti e tre cantavano e suonavano ed era una cosa unica, erano un essere unico. Abbiamo fatto l'intervista per radio con due di loro, perché Alberto era stato male, non era quella sera, non era. Era identico, parlavano. Sai cosa mi viene in mente, Antonio? Che delle macchiette, parlavano. Per spiegarci, è come se in quegli anni lì, per qualche magia, riuscivamo a far suonare l'amicizia. Cioè tu dici, qual è il suono dell'amicizia? Questa roba qua. Perché era una cosa sola, no, questa, l'unica regola che noi avevamo per esempio come gruppo è che non si potesse fare nulla se tutti nel gruppo non fossero d'accordo, se appena uno, che era una roba assolutamente nichilista, perché voleva dire firmare già la parola fine, perché prima o poi sarebbe successo. Questa cosa qui era... A questo proposito vorrei dire che mentre questo è un progetto personale che è nato dalla mia esigenza personale di mettermi a nudo su queste cose che io ho vissuto, di cui non ho chiesto permesso a nessuno, sebbene faccio un'introduzione in cui io dica, se non ti piace quello che ho scritto, io sono, però me ne prendo la mia completa responsabilità. Il progetto invece della ristampa, nonostante siano passati 30 anni, è passato attraverso l'approvazione di tutti e cinque le persone che hanno suonato nella band, perché una di queste persone fino a due anni fa ha sempre detto no, io non voglio che si ristampi niente, per me la roba deve essere tutta online, come di fatto c'è. non ne vuole sentire parlare. Quando questa persona ha detto fate un po' come cazzo vi pare, in sostanza ci ha dato l'ok, allora a quel punto lì è cominciata la masterizzazione, è cominciata l'idea della copertina, le abbiamo mandato la copertina, lui ha detto ok, un altro da Vancouver ha detto no, io preferirei così. Cioè, il rispetto che c'era inizialmente, il contratto firmato sulla mutua, sull'essere mutuamente d'accordo su ogni singola cosa che la band faceva, è stata ancora rispettata a distanza di 30 anni. Questa è una cosa, secondo me, sine qua non per quanto riguarda CCM e anche negazione. Aggiungo solo una cosa, che a distanza di tanto tempo invece la cosa bizzarra, anche forse c'è una cosa che ancora riesce a farci incazzare tutti insieme. Noi come negazione, ex negazione, abbiamo deciso dopo tanto tempo di procedere a queste ristampe. Abbiamo deciso di rendere disponibile tutto quanto su CD e vinile, che uscirà da giugno in avanti, e nel frattempo di fare questo cofanetto, per chi se lo può permettere, chi lo vuole, chi gli piace, in cui c'è tutto quanto una maglietta. Bene, noi sapevamo già che giravano dei bootleg, delle cose eccetera. La cosa che ho trovato veramente bizzarra è, devo dire, offensiva, nel senso che veramente allora non si è capito nulla di quello che si faceva allora, che abbiamo scoperto l'altro ieri, che in America viene distribuito un disco che si chiama Negazione Pre Early Days, vantando registrazioni inedite eccetera, e ce l'ha segnalato una persona che ha contattato questa persona che promuoveva questa cosa e che è anche riuscito a dire che era un'uscita autorizzata. Ed è bizzarro proprio che, anche forse la parola giusta a definire è triste, che per qualcuno siamo evidentemente degli oggetti da collezione, e lo posso anche capire, non ho mai, come dire, biasimato nulla di quello, ma qualcuno che si prenda la briga di mettere insieme qualcosa e in qualche modo tradire quello spirito, cioè dire questo è un disco di negazione, che non è evidentemente, soprattutto nel momento in cui escono altri, è una cosa che non però sicuramente qualcuno che non apparteneva alla nostra era. Beh, anche perché insomma adesso possiamo anche dirlo, vista l'età non è che ci sono più tanti in giro, Antonio? Ci sono altre domande? Però ecco. Prima parlavi di tuo figlio che va nei locali e non riesce a suonare, sì, perché pensavo che nei vostri anni succeda lo stesso, però c'era una cosa che magari adesso non c'è più, sono i centri sociali. I centri sociali? Non c'erano ancora. Cioè noi quando si può torciarli, magari è un parallelo alla vostra storia, ecco, stai parlando con uno dei cinque fondatori. Era la domanda che ti volevo fare, giusto una precisazione: quando noi si inizia non esistono centri sociali, il termine centro sociale apparteneva forse a Leoncavallo e viene poi messo in auge successivamente. Allora c'erano degli spazi occupati, sto parlando del virus a Milano, l'occupazione delle case a Bologna e tutto quello che venne dopo. Il Victor Charlie a Pisa è un'esperienza particolare, adesso lo può descrivere, perché arriva in un momento in cui appunto c'è non è né uno squat né un club, ma è il circolo Arci, nel senso fa ridere, ma nasce così. Allora, due delle persone con cui passavamo vita, morte, miracoli, giorno e notte, primi tatuaggi fatti a casa loro, eccetera eccetera, ricevono un'eredità dalla madre morta molto prima. Allora arriva questa eredità, e con questa eredità, anziché andare a farsi una vacanza in Brasile, dice apriamo un locale. Allora investono in questo locale, allora comincia la lotta con l'Arci cittadina per farsi dare permessi, che l'unico modo per poter aprire la pista era quello di diventare un circolo Arci. Adesso circoli Arci dove si mangia e sono le band sono comunissime, giusto? All'epoca no, cioè circoli Arci, l'unica band che ci potevano essere erano quelle che suonavano liscio, cioè luoghi dove suonavano liscio, si cenava, le bandiere rosse eccetera eccetera. Quelli c'erano, ci sono tuttora e ci saranno ancora, ma un posto dove poter far suonare delle band come noi non poteva essere apertamente dichiarato. Quindi apre questo circolo con tutti i permessi in regola. La sera dell'apertura i vicini cominciano a raccogliere le firme per farci chiudere, perché quando si rendono conto di cosa stava succedendo, quando vedono questa gente con i capelli colorati, quello seminudo, musica tutta la notte, quell'altro che spacca le bottiglie, casino, fanno subito la raccolta delle firme. E il presidente dell'Arci, uno che si chiama Debly Cherry, un pisano molto famoso, viene automaticamente buttato fuori dall'Arci per aver dato permesso. Andiamo avanti un anno e mezzo, dopodiché ci fanno chiudere, occupiamo, la polizia poi entra, mette i sigilli e quella è la però, però era un luogo diverso. Era un luogo diverso intanto perché sì, perché allora noi partiamo dal presupposto che allora non c'era una distinzione tra quello che poteva essere la politica e la musica, almeno per quanto ci riguardava, era un tutt'uno e l'esigenza di avere degli spazi era degli spazi vitali dove vivere, ma anche e soprattutto dove magari per gli spazi dove suonare. Questa differenza c'era. Sì, con la differenza che il Victor Scialli rappresenta un'esperienza unica perché era un'esperienza quasi più europea che italiana, perché era un luogo dove loro si preoccuparono di costruire un palco in un certo modo, un'amplificazione che funzionasse e si permettevano addirittura di pagare rimborsi ai gruppi che ci andavano a suonare. Funzionava in linea di massima così. Si andava, ho visto prima gli amici di qua che sono andati alla Conad, hanno comprato le birre. Noi andavamo alla Coop, si compravano le birre che costavano meno. Con due o tre carrelli, si riempivano questi carrelli di birra e si vendevano al doppio di quello che avevamo comprato. Con il ricavato la birra andava esaurita immediatamente, perché quelli che non volevano pagare per entrare, che non volevano tirare fuori 1500 lire, compravano le birre. Quindi entravi, compravi la birra e con i soldi ricavati della birra, visto che l'affitto l'abbiamo pagato due mesi, quei soldi li andavano direttamente... Ecco, lui ancora è uno di quelli che gli è durata tanto la birra. Andavano direttamente nelle tasche dei ragazzi che magari erano partiti come Chain Reaction da Bari. Cioè, un gruppo di persone arriva da Bari con la macchina, col treno, come ti pare, te non gli puoi dare 100.000 lire, 200.000 lire... di rimborso, che era poi quello che stava succedendo invece nel resto d'Europa, soprattutto in Olanda, in Germania, che sono andati a Comiso per prendere le botte completamente gratuitamente, c'è un gruppo solo, tutti gli altri sì, c'era lui che voleva sì, volevo capire come si arrivava alla violenza in un cioè, non c'è nessuna scena musicale al mondo come l'hardcore in cui esiste questa rete, no? Cioè, da famiglia, non c'è da nessun'altra parte. Però la violenza c'era già. Ma che succedeva? La violenza te la portavi... Come mai nel black metal non c'è violenza, invece con l'alcol c'era? No, la violenza c'era perché te la portavi... Se era la tua città, nel tragitto da casa o dove vivevi, al posto dove sarebbe suonato, perché potevi essere fermato dalla polizia, potevi trovare della gente per strada che non gradisse il modo in cui eri vestito. Ma nel live... E questo, aspetta, e questo te lo questo ti dico che te lo portavi dietro, stava intorno a noi ed erano, stiamo parlando di una scena di ragazzi tra i, cioè Tax quando venne per la prima volta in Olanda mollò l'ultimo anno di scuola superiore, non piaceva mai la maturità, c'erano 17, 16 eravamo giovani e la violenza c'era ovunque in quel periodo nelle città italiane e nelle città europee, quindi non è una cosa che tu dici ok però adesso vado al concerto e lì non succede nulla, no, perché poteva arrivare la polizia a chiudere il posto, potevano arrivare balordi che venivano a vedere cosa succedeva lì, non solo, venivano anche a provocare. Quindi non è mai stato interno alla scena, no? No, anzi, cioè voglio dire, quello che eravamo, come eravamo noi, la rifiutavamo e anzi, potevamo anche pensare di intervenire spesso in forma di autodifesa, perché se c'erano dei naziskin che volevano interrompere il concerto, si parlava, partiva tutti quanti per evitarlo e non c'era la differenza tra chi suonava, chi stava tra il pubblico, chi faceva fanzine, chi organizzava. Si era tutti una grande famiglia, ma anche all'interno di quella famiglia c'era quella che io credo fosse una violenza inespressa che faceva parte delle nostre vite, perché crescevamo alla fine del... cioè io sono diventato ragazzo alla fine degli anni 70 a Torino, oggi Torino è una città meravigliosa, allora era un posto da cui scappare via, noi uno dei primissimi pezzi che noi scriviamo si intitola Città Prigione. Non so come dirti, è difficile da spiegare oggi, ma è come se tu mettessi un insieme di gang di stile quello che poi c'è stato a Los Angeles con gli abusi della polizia, con tutto un altro mondo che erano i cosiddetti tamarri, no? l'esempio della giungla di Bari, ecco, io c'ero, quindi potrei... la giungla fosse occupata a Bari, che fin quando c'erano semplicemente ragazzi che avevano occupato andavano d'accordo. Però c'erano costantemente i piccoli mafiosi, certo. Mafiosi che andavano lì, li provocavano, o semplicemente si divertivano a spaccare tutto. Non, questo forse può servire per capire. Allora, siamo aprile 84, tu scegli Carmelo aggiunga. Loro ci fanno sapere a tutti gli altri punk d'Italia che hanno occupato questo posto, i punk di Bari, e vogliono organizzare questo concerto. Si parte tutti in treno, è Pasqua. Da Torino, da Milano, salgono da Bologna un sacco di persone, eccetera, eccetera. E al concerto ci saranno dei gruppi di Bari, in Negazione, i Bloody Riot, che noi conosciamo per la prima volta lì, ma che furbescamente sono arrivati e se ne sono tornati a Roma la notte stessa. Noi invece rimaniamo lì perché il giorno l'indomani si deve andare a Crotone. Veniamo praticamente scordati da queste ali di motorini, di ragazzetti di Bari Vecchia che insomma ci un po' incuriositi, un po' che c'era già ci cercavano di molestare, perché tu ti vedi arrivare 100 punk a Bari, forse non era mai successo. Quando arriviamo lì c'è il concerto, tutto meraviglioso, un sacco di gente eccetera, ma il posto stava in un quartiere periferico, semiperiferico, dove era fortissima una presenza criminale che era interessata a quello spazio. Quello spazio era una ex scuola e i malavitosi del posto volevano quel posto, scoprimmo dopo, per occuparlo in termini criminali per poi subaffittarlo. E quindi c'è il concerto, tutto quanto. Noi, come succedeva sempre in quelle situazioni, si dorme lì e quindi siamo tutti al piano di sopra a dormire. E verso credo le 3, le 4 di mattina inizia a salire un forte odore di fumo. E fondamentalmente che cosa era successo? Avevano dato fuoco alla sala dove noi avevamo suonato fino a poche ore prima, e noi siamo usciti, abbiamo iniziato a scappare come topi da questo posto. Quello poteva succedere, per darti un'idea. Oppure come quando siamo arrivati a Norimberga. Un altro episodio simpatico. Dovevamo suonare a Norimberga, arriviamo, avevamo l'indirizzo, cerca questo posto, non c'era niente. C'era semplicemente una catasta di legna. Aspetta, anche lì dovevi aspettare che il promoter, il parolone, venisse a trovarti. Arriva un ragazzo, si scopre che questa catasta di legna è il posto dove avremmo dovuto suonare. Perché? Perché la sera prima avevano sbagliato la locandina, ci avevano messo la sera prima la data. Era arrivato un gruppo di skinhead e aveva raso al suolo tutto. Quindi la violenza, come vedi, ahimè, era palpabile. Cioè, a Capista, Victor Charlie, ci sono stati dei raid di tossicomani, per esempio, che venivano per far vedere chi comandava a Pisa, chi siete esatto. Voi con questi capelli del cazzo. Quello che quando per far vedere che loro erano i veri tossi, capito? Quando parlavo della strada come ambiente era esattamente quello, tu ti ritrovavi inevitabilmente a viverla, e in qualche modo voi vivevi anche un clima bello di festa, ma anche di costante allerta, cioè certo. le occupazioni andavano in qualche modo sempre difese, c'era sempre un po' di attenzione su quello che poteva accadere. Poi andavano accadere. Anche difese da quelli che in mezzo a noi facevano cose magari... Esatto. Perché abbiamo raccontato l'aspetto romanzato, anch'io ho dato un taglio, pur non rimpiangendo niente, però la mia è una storia bella di quegli anni lì, cioè io la porto nel cuore la mia storia, però ci sono anche storie di persone che facevano cose non esattamente... Esatto. Per esempio eravamo tutti contro l'eroina fortemente, però c'era qualcuno che poteva capitare, no. Che qualcuno che invece facesse uso dell'eroina, nonostante suonavi al virus e suonavi davanti all'accerchiata che spaccava la... Anche perché l'altro dato di quegli anni era che eravamo un po' come erano un po' come degli anni zero per ognuno di noi. Cioè tu in qualche modo entravi in contatto con i tuoi simili perché eri vestito nel modo simile, perché eri incazzato allo stesso modo, perché ti piaceva quel gruppo, quella musica insieme. E io non mi ricordo quanto tempo ci ho messo a scoprire come si chiamava Carmelo di cognome. Per me era Carmelo di Roma, appunto. Non mi interessava che cosa facesse suo padre, che lavoro avesse fatto, di quale quartiere abitasse, eccetera, eccetera. Questo era abituale, cioè. Io ho sempre saputo che lui era Ghighi, punto, perché stava a Bologna, lo conobbi nel caso occupato di via Galliera, e lui non mi chiedeva, cioè non c'era un tutto ciò che invece dice come regola di autocontrollo sociale: da che famiglia vieni, da che quartiere vieni, che scuola hai fatto, che lavoro fa tuo padre, qual è l'orientamento politico della famiglia. No, partivi da zero. C'era un qualcosa che poteva anche assomigliare. Io credo che esista in molte forme di aggregazione giovanile, in fondo a qualcosa di simile con i surfisti, con gli skater, che non a caso allora si univano in qualche modo a noi ed erano comunità affini. E poi anche in versanti magari meno brillanti da un punto di vista sociale, perché ci fu anche comunque e faceva parte della scena, anche non volendola, un aspetto un po' criminale, nel senso che giustamente Antonio ha detto, anch'io ho dei ricordi meravigliosi eccetera, e sì, nel computo delle cose fatte, delle cazzate ce ne sono tante, ma c'è altri che l'hanno fatto di molto peggio, ecco. Se non avete altre domande partiamo, eccolo qua, il domandone, sapevo che arrivava. Secondo voi lo spirito di famiglia dell'hardcore esiste ancora o c'è solo internet? O in parte? Ma io non ho la pretesa di giudicare ciò di cui non faccio parte. Quello che ti posso dire è che quello spirito lì per me è rimasto dentro la mia vita, certo. E nelle persone che incontro, mi ha, come ho detto prima, mi ha regalato anche un approccio curioso, esatto, di apertura mentale, di non giudicare, tutta una serie di cose, di lezioni che ho imparato. Il web ha semplicemente, credo, moltiplicato qualsiasi effetto. Io non credo che esista un'entità web da dire bene o male, è bello o brutto, è semplicemente la condizione del tempo. È come dire che quando ero ragazzino io a Torino c'erano i pullman a due piani, il 64 ti portava in Piazza Castello, ma era un mezzo, capito? Poi noi si faceva campagna per non pagare, eccetera eccetera, ma era semplicemente un mezzo. Internet ti permette di diffondere e avere accesso, poi sta l'utilizzo, non credo che siano due cose che in qualche modo confliggono. Poi se mi chiedi se io seguo ancora l'hardcore, no, sono onesto, mi piace ascoltare delle cose che magari scopro oggi, mi piace avere amici con delle cose in comune che magari hanno una radice simile, ma non ho, anche perché poi noi personalmente come negazione abbiamo avuto un percorso che è andato anche un po' oltre quello che era la scena hardcore. Giustamente Antonio ha raccontato che in qualche modo nell'87 si chiude un po' un cerchio nella scena italiana, e in qualche modo noi continuiamo e veniamo contaminati da venivano a sentirci più ragazzi della scena metal, della scena indipendente, e la stessa cosa succedeva in Europa, quindi è molto personale. Lasciamo, allora, intanto, beh, perché è bello, siete stati simpatici, ci avete sopportato, ma ora vi tocca, cioè, come minimo, c'è qua, dovrebbe essere abbastanza per tutti, e poi dovrebbe esserci Chef Ragù che mette dei dischi, non so se ha finito le sue birre o se riapparirà magicamente. Comunque qui Antonio è pronto a firmare, ci sono anche le ristampe dei CCM e le ristampe di negazione. Addirittura anche le magliette. E grazie a tutti voi per l'attenzione. Grazie di cuore. Le 22:35, ritorniamo in voce qui su Radio Onda Rossa. Con i governi in tutto il mondo in questo momento e questa appunto era la registrazione della presentazione del libro No More Pain di Antonio Cecchi dei Citachrome Motherfuckers, coaudivato da Marco Matteo dei ex bassista dei Negazione. Se no passi per quello che sapete sempre. Ma chi è allora che si diverte a farsi un verso dell'umanità? Noi chiudiamo così la trasmissione, non prima avervi ricordato qualche appuntamento probabilmente di questa settimana. Allora, questo venerdì ...12 maggio, all'orto occupato di Montenanico, dal tramonto all'alba volume 3, organizzato appunto dall'orto occupato di Montenanico, l'associazione Terra Madre. E quindi cibo vegan con i prodotti dell'orto a chilometro zero. Una mostra di scultura ad opera dei ragazzi dell'Associazione Arti di Palestrina. E poi concerto dalle ore 22 con Mefitica, Buttero, Reclaim e Colos. Un'altra iniziativa questa domenica, quindi dalle ore 14, una festa di autofinanziamento dedicata alla sala prove 100 REC. la sala prove è autogestita dello spazio sociale. 100 celle aperte. E quindi sul palco i gruppi che partecipano alla vita della sala prova autogestita. Tra i quali 3K, Carimba, Home Sweet Home, i soggetti smarriti e il giardino violetto. E quindi 100 Rec promuove la cultura e la socialità, lo scambio e la conoscenza, sostiene l'accessibilità, l'auto-organizzazione e la condivisione di esperienze. È quindi un progetto auto-organizzato ed autofinanziato che non produce reddito. Tutte le entrate vengono reinvestite nell'attività interna ed esterna dello spazio sociale. Contribuisci secondo le tue possibilità. Questa è la sala prove dello spazio sociale 100 celle aperte. È professionale, accessibile e a sottoscrizione libera. E quindi questa domenica venite tutti e tutte allo spazio sociale 100 celle aperte dalle ore 14 in poi. Sabato 20 maggio 2017 alle ore 15, presidio davanti al carcere di Livorno. Ancora una volta l'arroganza degli esecutori della legge, il loro pregiudizio, ha avuto ragione sulla vita di qualcuno decretandone la morte. Ancora una volta il carcere si dimostra per quello che è, uno strumento esiziale. Scopo del carcere è distruggere l'identità, il pensiero, la dignità, l'agire e persino i corpi di chi lì viene sequestrato. Dall'inizio di quest'anno già 35 detenuti sono morti all'interno delle galere. Stefano Crescenzi, di anni 38, morto di carcere il 22 gennaio 2017. Una storia come tante, come troppe. Sabato 20 maggio 2017 alle ore 15, davanti al carcere di Livorno, in via delle Macchie. Odiando il carcere giorno dopo giorno. Presidio in solidarietà con le persone detenute e i loro familiari. Perché quello che è successo a Stefano Crescenzi non accada mai più. Per maggiori informazioni consultate il sito di Rete Evasioni. .22:42 minuti primi, andiamo a chiudere così la puntata di oggi di Do It Yourself Invasion. L'appuntamento è a martedì prossimo, giuro, dalle ore 21 alle ore 22:30. E quindi un saluto ad ascoltatori ed ascoltatrici che hanno avuto la pazienza di ascoltare la trasmissione. Il saluto più caro va a tutti e tutte coloro che si trovano privati della libertà personale. Un abbraccio.